Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Daniele è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che se si mette a giocare con l'Ula Hop la gente fa: guarda come si vede bene stasera Saturno. Pensate che adesso ha dovuto fare una dieta, è triste, il dietologo l'ha messa a dieta, non può mangiare niente, però ha buttato giù 70 kg, a piedi il dietologo l'ha buttato dalla finestra. Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa, che quando va a scuola è amica de banco di tutti. Oh, bravo! Non mi piace. Senti, ammazza, oh, ma hanno fotocopiata. Sì, ma te sei informato a tre, però. Ha fatto la battuta, C'è una notizia che non ha molto avuto eco nel nostro paese, perché siamo occupati in altre cose, che però mi fa riflettere, vorrei sottoporre oggi al mio pubblico. In Belgio è stato rifatto un nuovo governo. Nel nuovo governo c'è un ministro della sanità, si chiama Maggie de Blok, che è una signora, un medico, che dalle foto è palese che è una signora sovrappeso, ma sono fatti suoi. Nulla di strano, se non che una giornalista della TV pubblica belga ha aperto una polemica, iniziata su Twitter, ma sapete, oggi i social media hanno modo di tracimare ovunque, anche nei mezzi di informazione più consolidati e tradizionali, perché dice che non può essere che un ministro della sanità sia obesa. La dottoressa De Blok, perché medico, ha risposto, ha detto: dati, io faccio il medico, i miei pazienti non sono mai lamentati, saranno fatti miei se sono obesa. Ha ribattuto la giornalista dicendo: no, impossibile che un ministro della salute abbia questa sorta di aspetto esteriore, quindi dia il cattivo esempio. La signora Maggie de Blok ha continuato a dire che in effetti lei è fatta di carne e di sangue, con qualsiasi essere umano saranno problemi suoi, dice: valutatemi per quello che farò. La cosa in sé è relegata probabilmente alla politica belga, però mi fa riflettere, perché ci siamo lasciati venerdì con la storia di un ragazzino che era obeso e è stato stuprato con un compressore da dei ragazzacci, anzi anche grandi, perché hanno 24 anni, e ancora se ne è parlata tutta domenica in tutti i contenitori televisivi. Ma esiste ancora un pregiudizio così radicato nei confronti delle persone sovrappeso? Sì, è indubbiamente molto sovrappeso Maggie de Blok, è la tipica signora obesa, ma saranno problemi suoi. Se la signora avesse avuto un qualsiasi altro tipo di problema, non so, fosse stata diabetica, celiaca, qualcuno avrebbe detto: non può fare il ministro della sanità una signora celiaca o diabetica, perché deve dirlo una signora che è obesa? Avrà sicuramente dei problemi, perché è di una grassezza che naturalmente ascrivibile a qualche problema, sono fatti suoi. Perché ancora esiste questo profondo e radicato pregiudizio che la persona grassa, sovrappeso, o debba essere il simpaticone nella compagnia, o l'amico scherzoso, o quello che tenere allegri gli altri, o è una persona a guardare con sospetto, perché in sé si cela un vizio, come se il sovrappeso fosse segnale di una condotta irregolare. Lo sarà senz'altro, ma ci sono tante condotte irregolari che non si leggono in faccia. La vigliaccheria non si legge in faccia, l'avidità non si legge in faccia, la crudeltà non si legge in faccia. Perché l'obeso è l'unico che ha un segno esteriore che deve per forza rilevare un suo vizio? Voi come la pensate? 800 24 0024. Da quanto è lento quel ragazzo? E già si è svegliato te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, c'avevo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine e il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che si muovemo si poteva andare anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Infatti Aldo Fabrizi e Aveninchi, nelle radici della nostra comicità, sono una coppia che fa sorridere, perché sono tutti due grassi. Pensano a mangiare, parlano solo di mangiare, sono portatori sani di ottima cucina, di godereccia trascorsa alla tavola, ma nessuno ha mai pensato, magari, se loro fossero in qualche maniera nominati in cariche pubbliche, qualcuno avrebbe da dire qualcosa, non li prenderebbe sul serio. Strano che siamo in un momento in cui sembrano che pregiudizi apparentemente siano tutti caduti nel nome del politicamente corretto, tutto si può dire, nulla si può dire riguardo persone che comunque hanno i segni esteriori di un loro problema o di un loro svantaggio. Perché rispetto alla persona sovrappeso esiste ancora questa così profonda e palese e anche vigliacca, visto che è una lotta tra donne in modo particolare su un aspetto estetico che è ancora più crudele, che si sottolinei che una donna, una non allineatura a un modello estetico che oggi viene considerato vincente. Ivo Germano, buongiorno. Buongiorno. Ti sottopongo il caso della ministra De Bloch e ti sembra che sia collegabile ad alcune derive interne al nostro costume non sempre percepibili, che una giornalista, la TV pubblica, come se non lo facesse un importante telegiornalista, lancia una campagna contro il ministro semplicemente perché è obesa, dice non può rappresentare la salute in quanto obesa? Non me ne meraviglio, perché in un certo senso il grasso dà scandalo, cioè è uno degli ultimi scandali rimasti. È stato un po' una pietra di paragone come rispetto ai parametri su misura ottimali, performanti, che la società insomma fa di tutto per mostrare e rappresentare, però evidentemente una ministra, indipendentemente da competenza, credibilità, valore personale, poi sono in un ministero sensibile nelle restrizioni del welfare contemporaneo come la salute eccetera, se si sovrappeso da scandalo, ecco, diventa non più una pietra di paragone, che so, della possibilità di genere, di politiche di genere, di affermarsi, di avere responsabilità pubbliche, ma un giornalista appunto nell'arena pubblica la considera scandalosa, quindi inappropriata, urticante, diversa per principio, ecco. Ecco, Ivo, se lo fa una giornalista TV pubblica non lo fa certo per un suo capriccio, non è certo una battaglia tra donne, non è certo quelle querelle che si fanno su Twitter le giornaliste tra di loro per strapparsi le prime serate o dicendosi cattivere. Lo fa perché secondo lei è fondata su non tanto su un pregiudizio ma su una campagna socialmente condivisibile. La ministra obesa quindi rappresenta un modello di umanità che in realtà non è salutare, non è regola con alcuni stili di vita, è quasi un'accusa di tipo etico a priori, capito? Sì, mi dà l'idea un po' di stato etico, ecco, insomma, ci sono state altre categorie che bene o male hanno bypassato questo problema, l'obesità, il grasso, dicevi prima giustamente, o un pacioccone quasi a livello di demenza che deve per forza scherzare per farsi accettare, ma se gettato nell'arena pubblica, nel momento del confronto pubblico, non va bene. E allora rimuoviamolo. Cioè si crea un phobos, no? Una specie di fobia, non so come si chiami. Che ancora però stranamente non è ancora entrata nelle categorie politicamente corrette. Ci arriverà tempo al tempo. Stefano, buongiorno, sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Io amo chiamarmi Ciccione. Tutta la vita combatto con questa cosa, vabbè, data una serie di problematiche. Quindi lei capisce il problema della ministra De Bloch? Come no? Io quando voglio fare il serio, cioè quando uno mi dà fastidio veramente, che fa allusione al mio peso, gli dico una parolaccina: tu che cazzo ne sai di quello che ho io dentro? Perché non è dato per forza dal mangiare in modo regolato da bestia, però è vero, non riesce a sorpassarlo. Io ho 44 anni, ci convivo praticamente da quando ne ho 15 e mi fa ridere quando i miei clienti magari vedono su Facebook e mi dicono: cavoli, ma tua moglie è veramente una bella donna, come per dire, minchia, come fai ad avere una bella donna tu che sei? Come fa una bella donna a stare con uno come te? Esatto. Non essendo ricco ovviamente, quindi uno, perché se sei grasso e ricco non c'è problema, però se sei grasso diciamo normale è una cosa stranissima il fatto che una bella donna ti abbia sposato e abbia fatto due figli con te. Questa è la cosa che io tutti i giorni, sono un donatore Avis, tutte le volte perennemente che vado a donare il sangue, la tibia, la dottoressa mi dice: ma sa che lei ha un problema di peso? Io dico: guardi, no, sono completamente cerebroleso, quindi non lo so, penso di essere magro. Lei è stato sempre sovrappeso, è stato sempre sovrappeso nella sua vita? Anche a scuola? Mi ricordo io, sì, sì. Quindi anche a scuola sarà stato un inferno? No, a scuola però dai 15-16 anni, però ho la fortuna di avere una forte autoironia e avere un carattere abbastanza... Quindi era il simpatico della classe, era tollerato in quanto... No, non tanto, ero anche lo stronzo delle volte, cioè dipende. Diciamo che mi so far rispettare nonostante il mio... Quindi era grosso, anche le mani pesanti, quindi nessuno osava. No, mai alzato le mani perché non sarei in grado, però diciamo come carattere so farmi rispettare. Grazie, Giorgio, buongiorno, 800240024. Sì. Buongiorno Nicoletti, non vorrei che ci fosse però la commiserazione. No, io non commisero nessuno. No, dico, commiso. Nel senso che la ministra è come Dracula all'Avis, non perché non possa farlo, ma certo adesso il problema della forma fisica, del peso, dell'attenzione a queste cose, da Michelle Obama, da altre, sembra un problema importante per evitare poi inconvenienti futuri. Uno ci mette... Adesso non è una cattiveria, è un po' luogo comune, purtroppo c'è, questo c'ha ragione, c'è una cicciona, viene da dire, però una persona come quella, e uno dice... Se viene a pensare, sei anche un medico. Come fa a dirmi... Sì, prego. È vero, infatti io avevo un dottore, una dottoressa che purtroppo è morta, che fumava come una turca, e a me mi metteva veramente in difficoltà, era bravissima, però poi quando doveva dire, sì, bisogna stare attenti a questo e quello, mi crollava un po' la credibilità. Ecco, la signora... Le politiche verso la gioventù, che adesso è troppo grassa, devono far movimento, come le sostiene? Questo dico, la credibilità da questo punto di vista. Lei dice, beh, perché vede, però lei attribuisce una condotta deprecabile, censurabile a questa signora, dice come fa a dare il buon esempio? Potrebbe fare delle ottime politiche per la gioventù, potrebbe dire lasciate perdere come sono io. Non riesco a capire perché una persona sovrappeso debba avere interdetta la carriera di ministro della salute solo perché è sovrappeso, e altrimenti se avesse una qualsiasi altro tipo di patologia in realtà potrebbe farlo. A quel punto di sua grassezza probabilmente sono dei problemi che vanno oltre il mangiare, come ha detto il nostro ascoltatore. Fermiamoci un istante, 800240024, che prendiamo tra pochissimo tempo. A me il pollo mi piace fatta alla romana, fatto con i peperoni, e se il Napoleone veniva a Roma, il Napoleone mangiava il pollo che gli facevo io, sta tranquillo, mo te faccio vedere come faccio. Non si arrabbi. No, che c'entra, ma proprio sì, mi dice il pollo alla marenga, ma chi lo conosce sto pollo alla marenga? Ma non mica ho offeso lei, né i polli di casa nostra. No, ma lei ha offeso Roma. Perché Roma, a Roma si mangia così. Ma come, ma se a Roma sono venuto da 15 anni e ci sto benissimo. No, ma a Roma si mangia il pollo, per carità, la romana, ma che scherza. È chiaro, la sorella è un personaggio simpatico, ci fa sorridere, ci mette allegria, ci ricorda le nonne, le antiche zie che ci rimpinzavano di cibo, ma trasportata nella contemporaneità, nell'efficienza, in un ruolo femminile che non sia discriminatorio, cosa potrebbe fare la sorellella? Potrebbe dirigere un ministero. Guardate, non è lo stesso paragone, perché la ministra De Bloch è un medico, è una persona anche molto amata, molto votata, ha un grande seguito. Però chissà perché una giornalista a televisione pubblica dice: siccome è obesa non può fare il ministro della sanità. Voi come la pensate? Saverio, buongiorno. Saverio è caduto. Silvana? Saverio c'è, Silvana. Ecco, Saverio l'abbiamo ribeccato. Saverio, buongiorno. Saverio? Non so cosa stia accadendo. Ditemi chi c'è. Davide, ecco, perfetto. Davide. Buongiorno, sì. Buongiorno a tutti. Ecco. Un intervento molto breve. Io combatto col problema del peso da sempre e la cosa che vado cercando è trovare un dietologo ciccione, perché ritengo che sia l'unica persona in grado di darmi dei buoni consigli, se capisce il mio problema. Penso che i dietologi, quelli magri, alla fine possano curare, ma solo in maniera teorica, basandosi sui loro studi, eccetera, ma non arrivando fino in fondo a comprendere il problema di uno che magari è in sovrappeso e non riesce a superare il problema con diete varie, eccetera. Sì, ma ammesso che il problema dei belgi sia il sovrappeso, ammesso sia il primo problema della sanità, ammesso in un concesso che non credo che sia così, ammesso che sia un momento particolare in cui in tutta Europa si fanno tagli e ci saranno fatti tagli anche alla spesa pubblica sulla sanità, perché una ministra che è sovrappeso per qualcuno rappresenta qualcosa di scandaloso, perché solo per il fatto di essere sovrappeso rappresenta qualcosa di scandaloso, per dare l'impressione a una persona che mangia troppo, che mangia tanto, incline a compiacere troppo la sua natura, o perché è una persona che non si cura. Ma quanti non si curano e quante malattie ci sono che rimangono nascoste? Forse si ricollega un po' anche al discorso della condotta che certi ministri tengono, no? Quindi se non sono in grado di mantenere nella loro vita privata una condotta integerrima, si ritiene che non possano mettere mano alle cose pubbliche in maniera corretta. Ma vedi, ha detto, perché non è integerrimo? È considerato poco integerrimo? Sembra quelle vignette dei giornali satirici degli anni 20 e 30, in cui si vedevano i ricchi sempre grassi, sempre obesi, perché erano ricchi e quindi mangiavano tanto. Io mi sento d'accordo con la ministra che dice giudicatemi da quello che faccio, non da come sono. Ritengo che una persona debba essere messa alla prova per quella che è la sua professionalità, le sue capacità, le sue idee. Se poi lei per ragioni personali fallisce dal punto di vista della dieta, questo è un problema suo. Può essere che non le vada manco di fare la dieta. Saverio, buongiorno. Buongiorno. Suo punto di vista? No, Saverio è fluttuante. Pronto? Non lo sentiamo proprio, peccato, non posso perdere altro tempo. Ivo Germano, torniamo con Ivo Germano, che è un sociologo, autore insieme a Danilo Masotti, di un libro intitolato New Gold Dream e altre storie degli anni Ottanta. Sono storie di adolescenti e preadolescenti. Non trovi che però sia un messaggio abbastanza pericoloso? Perché ammesso che passasse questa linea... Ideologico, direi. Ideologicamente molto pericoloso. Passasse questa linea, ma... taglierebbe, altro che gonfiarli col compressore, i ragazzi che avrebbero un problema di sovrappeso sarebbero considerati una sorta di paria della società ufficialmente a tutti gli effetti. Sì, una sorta di poligono di tiro delle altre frustrazioni, forse, ecco, come tiro all'orso, ecco, un po' di tiro al bersaglio, fra l'altro secondo me neanche troppo collegato, sì certo, anche collegato alla dieta, a regime ipocalorico eccetera, ma un po' questa corsa ad alcune categorie facilmente stigmatizzabili perché si vedono meglio di altri, ecco. Cioè, allora a questo punto se una ministra è grassa io non vado a un barbiere perché è calvo? Cioè, è poco credibile che mi tagli i capelli? Cioè, se ragioniamo in questo modo veramente facciamo un ragionamento ideologico. Sì, come ideologico dire, come dire il ministro della difesa che non ha fatto il soldato. Sì, anche capito, detto. Il ministro all'istruzione che non ha... Cioè, è un'escalation di finta virtuosità che porta a un vizio mimetico, secondo me, molto forte, di imitazione a ribasso. Sì. Cioè, in un mondo in cui, volenti o nolenti, un po' il politicamente corretto, un po' la sensibilità sociale, si pregia di difendere categorie cosiddette a rischio, gruppi cosiddetti socialmente esposti, eccetera, tutto fa franchigia perché una ministra è sovrappeso, forse se ne fregherà anche della linea, se ne fregherà anche di avere delle taglie assolutamente ridotte così, no, questo non si può fare, no, non va bene, come facciamo se no? Giacomo, buongiorno, un medico. Sì, buongiorno Nicoletti. Il suo punto di vista che mi interessa, perché io non vorrei nemmeno toccare dei punti delicati, questa non è una trasmissione che tratta problemi clinici, è chiaro che l'obesità è anche una patologia, è chiaro, ma... perché deve esistere una patologia che comunque ha una sorta di anatema sociale? Non è giusto, no. Perché altre malattie uno starebbe zitto. Esatto, su questo sono d'accordo. Non è giusto andare a criminalizzare una ministra perché è obesa, anzi io sono convinto che potrebbe essere anche molto più sensibile al tema. Sicuramente però bisogna fare anche una politica sull'obesità. Ma questo è chiaro, è logico. Al giorno d'oggi sui barattoli di Nutella dovrebbe esserci scritto come sui pacchetti di sigarette che fa venire delle malattie gravi, quindi questo qui assolutamente, però non bisogna... Spiego, noi siamo preceduti in una trasmissione di due ore che cura l'alimentazione, lo stile di vita, questo è d'accordo, ma nessuno si discriminerebbe se vedesse le conduttrici e dice, ah, tu parli di alimentazione, poi magari sei grasso o sei magra, nessuno lo potrebbe dire. La giornalista ha sbagliato, io sono convinto che non sia assolutamente corretto e non dovrebbe puntare su questo, assolutamente, sull'aspetto fisico, non è un problema di aspetto, la salute è un'altra cosa. Concorda, dottore, però che l'aspetto, diciamo, patologico legato alla grassezza cade in subordine rispetto al pregiudizio riguardo l'aspetto esteriore? Cioè, non credo che l'abbia fatto, sì, ma palesemente tradotto in parole povere, è brutto vedere un ministro della sanità che in realtà non è lo specchio della salute, perché è grassa. Questa è la cosa che mi dà un po' fastidio. Sì, sono d'accordo. E forse un po' peggio il medico che diceva l'ascoltatore di prima sulle sigarette. Ecco. Ma un ministro della salute deve essere un bravo amministratore. Non mi interessa che sia magro o grasso. La ringrazio, Giacomo. Silvana, finalmente una donna. Concludiamo con lei. Buongiorno, buongiorno. Senta, io credo che noi qua, tutti noi qui in Italia si vive in pregiudizi. Sembra quasi che le persone non possono essere semplicemente delle persone che mettono al servizio dei pazienti il loro studio, il loro operato, le loro esperienze. Devono per forza raffigurare qualcosa. Allora, ma noi quanto ce ne frega se la signora è grossa, se poi andiamo da lei che abbiamo un problema e lo sa risolvere? Allora è molto meglio una signora alta, bella, magra, e poi arriviamo da lei ed è un ed è incompetente. Lo so, noi abbiamo avuto un periodo in cui i ministri pin-up erano altrettanto messi sotto accusa, quindi evidentemente l'aspetto esteriore deve cadere in subordine rispetto al giudizio su un politico. A domani.